clemenza mia, sciolsi e tu lasci, e resi a te la libertà del regno, e questa è la mercè. Ora che giova insultarci così, difesi il trono contro te, Tolomeo. Tu sai di Roma il costume quale, l'orgoglio, il fasto. Quel che delitto in noi, virtù si chiama, e latini eroi. Superbi! Il parlar vostro dovrio farmi sdegnar. Ma compatisco i duol che vi fa ciechi. Te volli il cielo del re, e non la fede, un esempio fra noi. Colpa sarebbe usar pietà. Tu solo associe renditi, che m'avrai vincitor generoso. Non ti viene associe la mia in petto di vita capace. E ben sian custoditi, e da catene oppressi, paghi la pena pur di tanti eccessi. Oh! sì, e regnai fin qui. Adesso è giunto l'ultimo dì per me, l'ultimo punto. A destino miglior serva la vita. Parto, ma con la speme di conservare a te la vita e il regno, di buon vassallo il mio pensiero è degno. Meglio incontrò la morte che temerla un istante, se le nostre cadute scritte hai già la sorte, ad onda dei destini moriam da forte. Son prigionier, ma in libertà mi resta, e costanza e valor. E la mia sorte, crudel per quanto sia, non è maggior della costanza mia. Forse mio morir sarà Nascondo un arcano in quel foglio, Cesare t'ama.